Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, sapete qual è il settore industriale più in crisi di tutti? Quello che ha avuto più moria di aziende, di dipendenti, di situazioni produttive? Quella del mobile, del legno e dell'arredo. Dal 2008 fino ad oggi il comparto italiano del mobile ha perso il 40%, una strage e anche un problema sociale. Eppure ci sono aziende che ce la fanno perché riescono a reinventarsi e a darsi un significato. E questo è il caso ad esempio della Lago, che è un'azienda che sta a Villa del Conte a Padova e che si è inventata il concetto del design come disciplina che produce senso e non solo prodotti. La Lago fa dei bei mobili, dei mobili innovativi, per esempio c'è tutta una linea di mobili sospesi, però non vende i mobili uno per uno, ma cerca di vendere una visione d'insieme ed empatica di prodotti, persone, luoghi. E questo fa sì che oltre a vendere i singoli mobili, vende format completi per gli appartamenti, abbiamo gli appartamenti Lago, format completi per gli alberghi e i bed and breakfast, format per i negozi. Con questo la Lago è un'azienda in crescita, che ha anche una lunga storia, perché ha radici che risalgono alla fine dell'Ottocento, è stata fondata dal bisnonno dell'attuale CEO, che è Daniele Lago, il suo bisnonno era Policarpo Lago, quindi è un'azienda familiare di quarta generazione. Un caso di successo di cui parliamo ora con il suo capo Daniele Lago. Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, lei è amministratore delegato, ma fa anche il designer e si è inventato quest'idea di vendere delle visioni. Ma in realtà abbiamo sempre, diciamo che da una decina d'anni abbiamo utilizzato il design come tools di trasformazione sociale, perché credo che sia una delle discipline che oggi abbia una capacità tutto tondo, insomma, di avere un impatto positivo sul pianeta, perché insomma utilizziamo il design a tutto tondo e sentendomi un po' nipote del capitalismo ho cercato di dare senso un po' più profondo all'azienda, che non fosse solo quella del mero denaro, per cui insomma abbiamo costruito una biofabbrica. Tra l'altro voi producete tutto direttamente o comunque vi appoggiate a fornitori della zona, quelle delocalizzazioni un po' selvagge che in settori come quello del mobile e anche in Veneto vanno un po' per la maggiore? No, noi siamo quasi 100% made in Italy, abbiamo un po' di forniture di materie prime che arrivano a livello europeo, però insomma ci teniamo molto che anche questo senso di territorialità possa dare un boost maggiore all'azienda. Insomma, ripeto, per noi lo sviluppo è tale quando tiene conto di tutta una serie di fattori, insomma, e anche l'impatto sociale per me è un tema rilevante, insomma. La vostra fabbrica com'è organizzata? Perché so che voi avete un concetto di fabbrica che è molto interessante. Beh, innanzitutto quando l'abbiamo pensata abbiamo chiamato un architetto che non aveva mai progettato fabbriche, ma aveva progettato solo abitazioni. E per cui di fatto abbiamo creato una grande casa di 11.000 metri quadri dove le pareti perimetrali sono trasparenti e i tramonti insomma riescono ad arrivare dentro. E questa qua è una cosa secondo me non banale, perché oggi ripensare un'area industriale progettata con questi termini potrebbe diventare l'area industriale stessa, insomma, un fattore anche di interesse per una comunità. In realtà poi ci siamo accorti che dovevamo implementare un modello organizzativo nuovo, perché la crescita era tale che non riuscivamo in termini di metri quadri a starci dietro alla crescita. Mm-hmm. E quindi abbiamo adottato questo modello organizzativo che arriva dal Giappone, che si chiama Kaizen, un modello organizzativo che si è inventato la Toyota, che era super interessante per noi perché da una parte è bottom up, per cui coinvolge molto il personale, cosa a cui noi teniamo molto, insomma questo concetto di squadra, e ti permette in maniera proprio con una filosofia interessante di migliorare ogni giorno. Pausa per la pubblicità e per gli avvisi sul traffico, restate con noi. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea con Daniele Lago, che è l'amministratore delegato e l'esponente della quarta generazione della famiglia fondatrice della Lago, che è una società che fa mobili e complementi d'arredo in quel di Villa del Conte in provincia di Padova. Stavamo dicendo che grazie a un concetto originale di design che dà senso a tutti gli ambienti, quindi permette di vendere non solo il singolo mobile ma il format per i negozi, per gli appartamenti, per gli alberghi, la Lago è riuscita a crescere, a fare buoni margini pur trovandosi in un periodo di forte deperimento di tutto il mercato del mobile. Il mercato del mobile, il settore del mobile, il settore italiano che è stato più martoriato in assoluto dalla crisi, meno 40%. Ecco, ma secondo lei, Daniele Lago, perché il settore del mobile ha sofferto così tanto in generale? Sicuramente perché è collegato alla real estate, all'immobiliare, e quindi insomma gioco forte, se si ferma quella macchina lì si ferma anche il nostro mondo. In realtà siamo in un mercato talmente frammentato che se tu ti giochi bene la partita insomma riesci comunque a crescere. Noi l'anno scorso in Italia abbiamo giocato quasi il 20% di crescita. E siete adesso intorno ai 30 milioni di euro. Sì, noi siamo passati da 3-4 a 30 nel giro di 6-7 anni. Adesso siamo quasi 200 dipendenti, eravamo più o meno una trentina. Diciamo che la ricetta è veramente rimettere le persone al centro e costruire forza attraverso l'innovazione, la creatività, ma che non siano solo delle parole, no, vuote, ma che siano poi di fatto... Beh, vedendo i mobili suoi, in effetti è così. Io ho visto ci sono mobili sospesi, altre cose che sono originali, ma non è mai però quel design esasperato fino a se stesso, intellettuale, che poi alle volte è anche fastidioso. C'è un'originalità, ma anche una praticità. Sì, perché noi abbiamo questa bussola in Lago delle 3C, cervello, cuore e coraggio, e cerchiamo sempre di sviluppare prodotti o progettualità di vario genere, cercando di essere razionali, funzionali, con un prezzo adeguato, no? Se mi sposto più, quindi il cervello, se mi sposto sul cuore devo anche emozionare, devo metterci una forma, un colore, una sospensione. E se mi sposto ancora più a sud, insomma, trovo il coraggio, dove magari un letto sospeso su una gamba, no, potrebbe essere anche in qualche maniera, insomma, generare una sorta di timore, ma anche di coraggio di chi poi insomma lo utilizza, il letto più venduto in Lago. Quindi diciamo che cerchiamo sempre di sviluppare a tutto tondo le progettualità, e una delle cose che forse ci connota rispetto anche ad altri player è il fatto che abbiamo sviluppato intorno al prodotto dopo un mondo. Oggi un'azienda per avere una grande forza deve saper suonare come una grande orchestra, e il prodotto è una parte dell'orchestra, non è il tutto. E quindi insomma abbiamo sviluppato una comunicazione sul digitale che ci ha portato ad avere 800.000 fan su Facebook, una community che è seconda solo ad Ikea nel mondo, ok? Ma è una community che ha un tasso di sharing dei contenuti 16 volte Ikea, per cui abbiamo una community che ci segue molto di più rispetto al player più grande al mondo sul nostro settore. Abbiamo un sito che fa quasi 3 milioni di visite all'anno, perché insomma abbiamo cercato poi di implementare e di cogliere tutte le opportunità che oggi il contemporaneo ci offre per sviluppare innovazione e per guardare al futuro con solidità. L'ultima cosa che abbiamo lanciato sul tema tecnologico è una cosa che si chiama Talking Furniture. Mm-hmm. Tutti i prodotti della Lago vengono dotati di un tag NFC, è una tecnologia che ti permette attraverso gli smartphone, ok, di attivare un dialogo con i prodotti della Lago. E quindi noi potremo fare condivisione, per esempio, di tutte le persone che vorranno condividere le ricette. Un israeliano che ha una cucina Lago potrà condividere la sua ricetta con la community che utilizza Talking Furniture. Delle persone che sono intorno al tavolo potrebbero memorizzare delle immagini, delle emozioni del tavolo e di metterle su uno spazio cloud. Ecco, ma fatto 100 il vostro fatturato, quanto è la vendita di singoli pezzi e quanto è invece c'è questa creazione di format per i negozi, di appartamenti, della vita di lavoro? L'uscita dal domestico è una strategia che abbiamo implementato e lanciato un anno e mezzo fa, per cui ancora... Ma ci sono già degli alberghi e dei bed and breakfast che hanno peserà un 10-15% del business, però in crescita... Può raccontarci di qualche albergo? Sì, stiamo facendo un progetto molto molto rilevante alle Maldive, un atollo intero di 150 casette con due ristoranti. Ma è fatto da un italiano che ha investito alle Maldive? Sì, un imprenditore illuminato che ha fatto un investimento rilevante e lì abbiamo curato sia la parte diciamo progettuale che poi anche tutta la fornitura. E diciamo che diventerà uno dei lago welcome più importanti, probabilmente lo apriamo nel 2016, ma ne abbiamo fatti anche tanti altri, insomma. Dove? Anche in Italia? Firenze, Saint-Tropez, Verona, stiamo lavorando. Ecco, ma per l'ambiente di lavoro, in che modo voi pensate di riuscire ad aumentare la qualità della vita di chi lavora? Perché io sono partito da un punto di vista totalmente proprio semplice e mi sono accorto che sono più in ufficio che a casa. E ho visto gli investimenti che si fanno sul mondo degli uffici per gli arredi comparati con quelli della casa e c'è un gap che è mostruoso. Allora mi sono chiesto se uno preferirebbe di lavorare su un ufficio nella sezione quella classica o su un ufficio che sembri più una casa. E abbiamo cercato di raccontare questo ad imprenditori. E diciamo che spesso gli imprenditori insomma ci hanno seguito, per cui abbiamo sviluppato ad esempio tutta la parte direzionale di innovazione di Intesa San Paolo sulla torre di Renzo Piano a Torino. Ah. Abbiamo fatto una sorta di appartamento enorme, gigante. Abbiamo sviluppato tutti gli uffici che sono più o meno 2.500-3.000 metri quadri di un'azienda digitale super innovativa, pluripremiata di Ugo Parodi, che si chiama Mosaicuna Palermo. E lì abbiamo fatto interessante. Ecco, ma la Lago dov'è che sta andando? Voi intanto avete fatto una crescita enorme perché praticamente eravate la bottega artigiana fondata dal mondo, adesso siete un'industria. Ma lei tra 5, tra 10, tra 15 anni dov'è che pensa di vedere questa azienda? La vede una multinazionale? La vede in borsa? Dove la vede? La vedo sicuramente con una dimensione più rilevante, però insomma radicata su dei valori su cui insomma finché ci sarò io e i miei fratelli credo che non faremo sconti, nel senso che ci teniamo molto a questo approccio anche che tenga conto dell'umanità, veramente delle questioni insomma. E però sicuramente mi vedrò più internazionale, siamo ancora al 70% nazionali, 30% esteri. L'inizio di questo 2016 è stato booming in termini proprio di sell out all'estero. Abbiamo fatto in febbraio il più. Ma anche perché voi vendete attraverso una pluralità di canali. Ho visto anche alcuni vostri mobili essere venduti da negozi online di altri. Sì, ovvio che adesso sul tema e-commerce ci sono un sacco di persone che si sono messe lì a fare dei siti. Adesso probabilmente faremo delle ragionate anche noi per cercare di calmierare anche un po' tutta una serie di cose relative a pricing, a prezzi che poi insomma se non tendi a governare possono creare anche dei problemi. Però sicuramente il futuro è fatto di multicanalità. Il futuro è fatto anche di complessità e l'abilità dell'impresa, dell'imprenditore, della squadra, è quella proprio di cercare di governare e di avere. Ma lei vorrebbe quotare in borsa un giorno l'azienda? Ma noi siamo stati i primi selezionati di borsa italiana per il programma Elite. Siamo stati tra le prime 30, per cui abbiamo già iniziato un percorso per indagare soprattutto in questa fase in termini culturali di quali sono le leve che oggi anche il mercato finanziario. Ma lei è interessato a quotarsi in borsa, sì o no? Per adesso no, però siamo curiosi, attenti a capire tutti gli strumenti che il contemporaneo può offrire. È ovvio che insomma cerco di stare lontano da tutti quei mondi eccessivamente speculativi. Dove la finanza è fine a se stessa. Mi piacciono poco e per cui insomma cercheremo di governare noi eventualmente la cosa. Va bene, andrei avanti a parlare con lei per delle ore, però il tempo è tiranno e dobbiamo chiudere. Agli ascoltatori dico arrivederci alla prossima puntata, sabato prossimo, ore 14. Arrivederci, dottor Lago. Ciao, grazie a tutti, ciao.